istituita con legge del 2004, ha, diciamo, ha tentato di mettere su un terreno abbastanza ipervalutato la questione della confine, ciò che è successo nei confini orientali dell'Italia all'indomani del secondo conflitto mondiale, con un'operazione che così portata avanti dalla destra, che però poi tutto, diciamo, il quadro politico italiano ha accettato. Secondo alcuni storici che adesso intervistiamo, che salutiamo, Sandy Walk, diamo il buongiorno. Ciao Sandy, buongiorno. Buongiorno. Uno degli storici che insieme ad altri, Alessandra Kersevan, Claudia Cernigoi ed altri, hanno tentato di rimettere con i piedi per terra un'analisi esatta di questo andamento, di quanto è successo. In realtà quella giornata di ricordo è stata un po' un regalo fatto alla destra revisionista per revisionare un po' i crimini italiani fatti nei Balcani, degli eserciti italiani fatti nei Balcani del periodo fascista, ma non solo nel periodo fascista, e che hanno portato appunto ad un convegno fatto lo scorso anno dal titolo Foibe, revisionismo di Stato e amnestie della Repubblica, che è stato pubblicato, gli atti di questo convegno, in un libro che è attualmente in distribuzione per la casa editrice KV, poi casomai daremo in termini di questa trasmissione, perché non è facile reperire in libreria, come è possibile chi lo volesse leggere, un libro molto interessante. Allora noi diamo subito la parola a Sandy Walk facendo questa domanda che prendiamo proprio dalla relazione introduttiva di questo convegno, che iniziava con queste parole: quello che oggi viene chiamato revisionismo ha radici lontane che risalgono al periodo finale della Seconda Guerra Mondiale, quando il movimento partigiano divenne un pericolo mortale per le classi dominanti che avevano messo al potere il fascismo, abbandonandolo solo quando il fascismo, appunto, divenne chiaro che i sogni imperiali si stavano trasformando in una catastrofe che minacciava di travolgere il loro stesso ruolo dominante. Perché gran parte degli uomini e delle donne che erano diventati partigiani le armi non le avevano prese soltanto per liberarsi dall'occupazione nazista e fascista, ma anche per spazzare via chi del fascismo era stato il padrino e per costruire un mondo diverso che sembrava possibile a portata di mano. E allora Sandy, questo è un po' il motivo per cui poi diciamo la lotta di resistenza, quando ancora era lotta di resistenza contro l'occupazione nazista e fascista, ha avuto all'interno, diciamo, un risvolto in cui è diventato per alcuni soggetti che qui appunto si individuano come i poteri forti, ma anche parte delle potenze alleate, il pericolo è diventato il comunismo trionfante, e questo un motivo per cui poi si è venuto fuori appunto il problema delle foibe. E allora dici un po' il quadro che tu hai delineato esattamente su questo andamento. Sì, beh, penso ci sia non molto da aggiungere, insomma un quadro un po' sintetico, ma corrisponde alla realtà dei fatti. Dobbiamo ricordare che per esempio l'episodio greco, dove gli inglesi intervengono direttamente contro il movimento partigiano a guida comunista, contro l'Elas e l'Eam, per impedire che questo movimento, che era maggioritario in Grecia, prendesse in qualche maniera il potere, ovvero rimettesse in discussione gli accordi che c'erano stati col governo invece monarchico, con un intervento diretto delle truppe inglesi. Addirittura vengono trasferite dal fronte italiano in Grecia, evidentemente era più importante quel fronte, diciamo, di quello contro i nazisti in quel momento, e da cui poi nasce la guerra civile greca, che si protrarrà poi fino al 49. È un esempio che diciamo di quello che poteva succedere da altre parti, nel caso diciamo un movimento partigiano non troppo aggredito avesse avuto la forza di diciamo assumere il potere nel paese, in Italia come da altre parti. Credo che quanto viene delineato in quella introduzione sia del tutto condivisibile e anche molto corretto, devo dire. Sì, non saprei cosa aggiungere, devo dire. No, ecco, io l'elemento centrale è stato questo. Tra l'altro abbiamo anche altri episodi durante gli ultimi mesi della resistenza, l'ultimo anno, in cui all'interno della resistenza comincia comincia la guerra fredda, quella che poi verrà chiamata guerra fredda, ossia di un atteggiamento da parte delle potenze alleate o di settori dei vari comitati di liberazione nazionale in cui diciamo comincia ad emergere quello che sarà il prossimo nemico, che sarà non più il fascismo, il nazifascismo, ma in via di essere sconfitti, ma il comunismo. Questo avviene anche nelle aree occidentali della resistenza italiana, non solo in nel Cuneese, nel Piemonte, eccetera. Ecco, però ci sono due errori clamorosi che tu segnali ed altri storici segnalano molto bene in questo convegno, due falsi clamorosi che permettono poi di far viaggiare il falso complessivo sulle foibe. A parte il problema del numero, il numero esaltato, che qui su questo libro è dettagliato la falsificazione, ma il fatto che si mischiano due fenomeni abbastanza diversi. Uno, alcuni elementi che possiamo chiamare di resa dei conti, cioè di uccisioni di collaborazionisti o ex fascisti nell'immediata liberazione, e l'altro di dire questi fatti sono avvenuti dal 43 al 45, dimenticando che la liberazione di quelle zone, il potere popolare in quelle zone è durato solo 20, 30 o 40 giorni, poi è tornata l'occupazione nazista e poi nel 45 c'erano già le truppe alleate. Ecco, questo errore, quindi questi doppi errori Sì, più che errore io lo definirei errore voluto. Esatto. Ci sono diverse mistificazioni, che riguardo a questa questione del cosiddette foibe d'esodo, si inizia dall'uso del termine foibe, che è assolutamente improprio per definire quello che intendono definire, le uccisioni, ovvero le morti di persone avvenute per cause, per motivi diversi, perché si mettono tutti assieme coloro che sono stati realmente infoibati, poi va detto infoibati sia da parte in episodi di rese dei conti, cose del genere, ma anche rese dei conti personali, ovvero episodi di banditismo, che non sono tutti attribuibili a un unico soggetto, ci sono poi quello che succede da tutte le parti in Europa in quel periodo, cioè il disarmo delle truppe naziste e collaborazioniste e l'internamento dei militari di queste formazioni in campi di concentramento. La stessa cosa succede da noi, e nei campi di concentramento da noi come altrove la gente poi anche muore per fame, per malattie, anche per maltrattamenti. Ci sono poi gli arresti da parte di formazioni della polizia segreta, la polizia politica jugoslava, che sono un altro soggetto ancora. Ci sono episodi di giustizie sommarie con fucilazioni, passaggi per le armi o cose del genere sul posto. Ci sono però anche episodi di processi con poi sentenze eseguite, in alcuni casi sentenze capitali. Allora, tutte queste cose sono fenomeni diversi che andrebbero studiati separatamente e non possono essere accomunati tutti assieme e denominati soprattutto come fenomeno delle foibe, perché in realtà, anche stando alle cifre che sostengono i sostenitori della foibologia cosiddetta, anche stando a quelle cifre gli infoibati sono quelli reali, cioè le persone i cui corpi sono stati recuperati da queste voragini sono una minima parte della cifra totale che questi signori sostengono, che va da qualche migliaio a diverse decine di migliaia, quando accertatamente una delle poche cose certe sono i corpi che sono stati poi effettivamente recuperati, che non vanno oltre gli 800. Quindi questo è un primo fatto, e poi c'è un'interpretazione delle vicende di quelle terre che anche in questo caso è la stessa che veniva data all'epoca dei fatti, in pratica dal 43 poi il 45, quando si diceva che l'esodo sarebbe stata la conseguenza delle foibe. Non è assolutamente così. Se andate a vedere l'ampia poi letteratura sulla questione dell'esodo che sta venendo fuori, ben pochi, c'è anche inizia ad esserci una raccolta di testimonianze, cose del genere, ben pochi di coloro che se ne sono andati da quelle terre se ne sono andati in conseguenza delle foibe, in qualche maniera. Le motivazioni per cui le persone se ne sono andate sono state molto varie. Va tenuto presente che una buona parte di coloro che se ne sono andati, per esempio, non erano di nazionalità italiana, e quindi è difficile che se ne siano andati per rimanere italiani, visto che non lo erano. Ci sono motivazioni politiche per una parte. Per il ceto dirigente di quelle terre sicuramente se ne sono andati perché non avevano capito che non avrebbero mantenuto il loro ruolo sociale, il loro potere, però per le altre, ed è la gran parte delle persone che se ne sono andate, le motivazioni andrebbero ancora studiate. Invece con questa legge che istituisce la giornata del ricordo si è data in pratica un'interpretazione ufficiale. E in questo senso anche il titolo del libro, di revisionismo di Stato, che non si esaurisce solo in quelle motivazioni, ma con il quale abbiamo a che fare quasi quotidianamente ormai. Io ho saputo cosa ha detto ieri il Presidente della Repubblica Napolitano, ha parlato di italiani uccisi, mondi di ogni colpa. Ecco, basta scorrere un po', e questo c'è anche nel libro, i nominativi e le biografie di coloro che hanno ricevuto, ovvero alla cui memoria è stato dato il riconoscimento che ogni 10 febbraio danno ai parenti di queste, di questi cosiddetti infoibati, per rendersi conto che tanto mondi di ogni colpa quelle persone non lo erano, insomma. Poi in alcuni casi, diciamo, di quelli dopo il 45, alcuni sono stati addirittura processati e condannati e poi fucilati dai comandi alleati, in cui c'erano inglesi, quindi non attribuibili ai partigiani jugoslavi sicuramente, no? Sì, ma alcuni, il caso più eclatante è stato negli anni passati, che ha suscitato anche un vero e proprio incidente diplomatico con la Croazia. È il caso di Sarentino, Vincenzo Sarentino, che è stato giudicato nel 1947 in Jugoslavia e condannato a morte in quanto criminale di guerra, perché faceva parte del Tribunale Speciale per la Dalmazia, cioè un tribunale che viaggiava per tutta la Dalmazia e comminava, diciamo, dava una veste legale a quelle che erano le rappresaglie, condannando a morte anche persone la cui appartenenza semplicemente alla, ovvero la cui collaborazione con il movimento partigiano era molto ma molto dubbia. Questa è una sentenza passata in giudicato, e anche secondo la legge questa persona non avrebbe dovuto ricevere quel riconoscimento, ma ci sono casi simili, altri, e ci sono casi anche peggiori di riconoscimenti dati a persone che sono cadute in combattimento contro i partigiani. Quindi è stato dato un riconoscimento a un combattente fascista in qualche maniera. Sì, fece arrabbiare il presidente Mesic, credo, non so chi altro sloveno ebbe dei toni duri nei confronti, no? Ci fu un po' di polemica, mi pare. Sì, ma io, conoscendo un po', venendo da quelle parti, le reazioni sono ormai molto chiare a quello che succede in Italia ogni anno ormai. Quest'anno so che a Capodistria è stata fatta una 3 giorni di Il Nostro Ricordo, in contrapposizione proprio alla giornata del ricordo. L'idea che in questi paesi si sono fatti di quello che sta accadendo in Italia è, secondo me, anche corretta, è quella di un processo di rivalutazione del fascismo senza se e senza ma, insomma. Esatto, e questo è il fatto più grave che tra un po' approfondivo. A proposito dell'esodo, volevo dire, appunto, questo, come hai detto tu, il tentativo di unire i due, fa risultare l'esodo come conseguenze delle foibe e non così. Tra l'altro c'è un dato che qui mettete appunto sul libro, dell'altro esodo avvenuto in tutt'altra zona, dei territori restituiti alla Francia, Briga e Tenda, no? Sulla zona occidentale, nelle quali in questi territori, lì non si parla, nessuno parla della Francia come diciamo anti-italiana, però ci fu un esodo in percentuale maggiore di quello che c'è stato nelle zone del confine orientale. Sì, in cifre assolute sicuramente non è paragonabile, no, però ha riguardato alcune centinaia di persone, però in termini, diciamo, percentuali è stato sicuramente molto più totale l'esodo da Briga e Tenda che non da, da Istria, dal Massia, queste cose. Ma ci sono altri episodi simili che non vengono ricordati, per esempio l'esodo dalle colonie, certo. L'esodo da Rodi, dalle isole del Dodecaneso che hanno fatto parte dell'Italia dalla prima guerra mondiale alla fine della seconda, sono episodi che non si ricordano, come non si ricordano episodi simili a quelli delle foibe, con cifre anche abbastanza accertate, sempre riguardanti la Francia, per esempio. Voglio ricordare che i militari italiani che sono stati catturati in Tunisia e che sono finiti nei campi di concentramento gestiti dai francesi, sono morti in percentuali altissime. Penso che su 30-40 mila prigionieri in questi campi ne sono morti nel giro di un paio d'anni fra i 3-4 mila, ed è più o meno la cifra che, di cui si parla riguardo alle foibe cosiddette, ma di questi militari, e questi sono morti effettivamente solo perché italiani, sono stati lasciati morire nei campi, vivevano in buche, non avevano neanche una tenda o cose del genere, sono morti di fame e di stenti, ma di questi evidentemente non sono utili e quindi non c'è interesse a ricordarli. Certo, e poi per non parlare di tutti, diciamo, dei territori colonizzati dall'avanzata tedesca, che per esempio in Cecoslovacchia o in Polonia, che hanno prodotto un esodo al contrario, cioè di popolazione tedesca buttata via da quelle zone, che arriva a 15 milioni di persone, cioè un esodo abbastanza forte in quelle zone. No, un'altra cosa volevo dire prima di giungere un po' alla domanda, diciamo, un po' clou, il fatto che dopo l'8 settembre, no, il periodo che qui alcuni studi dicono durò 20 o 30 giorni, il periodo di potere dei partigiani in quelle zone, poi ritornarono i nazisti, nel po' come successe in Italia, no, dopo l'8 settembre, sì. Ecco, e i nazisti tornarono, misero ancora più di prima il pugno di ferro, è successo ovunque, perché avevano intanto l'acqua alla gola e perché si sentivano ormai la situazione abbastanza in arretramento, e loro fecero delle esecuzioni sommarie, come era normale fare per le truppe tedesche, e utilizzarono, alcuni di questi morti furono poi buttati come cadaveri, no, come era uso da quelle parti, anch'essi nelle foibe. Eppure, ecco, se non si usa, cioè si dice infoibati dal 43 al 45, senza tener conto di questo periodo di ritorno del dominio nazista in quelle zone. Sì, in effetti i morti evidentemente non sono tutti uguali. Sì, i nazisti, anche perché lì c'era stata questa insurrezione popolare, e hanno trovato una resistenza in alcuni casi anche parecchio forte, per cui hanno impiegato il pugno di ferro, si sono vantati di aver eliminato 10-12 mila ribelli in quei territori, probabilmente la cifra è leggermente esagerata, ma alcuni migliaia di morti penso ci sono stati. L'uso delle foibe, ci sono tracce del fatto che sarebbero state utilizzate dai fascisti già prima ancora della guerra, per eliminare i loro oppositori, quindi anche in questo caso è un uso abbastanza improprio di questo termine, perché non è attribuibile a un solo periodo storico in qualche maniera, e praticamente chi si è inventato probabilmente quel tipo di uso poi l'ha attribuito a qualcun altro. Sì, evidentemente, ripeto, i morti non sono tutti uguali, oggi come oggi, diciamo, i morti fascisti sono diventati più importanti dei morti antifascisti. Certo, dunque, però torniamo un po' alle origini, no, di questa, del perché, nonostante i tentativi che voi qui dite, giustamente, iniziarono i tentativi di, diciamo, dei fascisti, o comunque delle destre, di portare avanti questo problema delle foibe fin dall'immediato dopoguerra, nella riformazione delle formazioni fasciste, che in Italia poi diede luogo al movimento sociale e altre cose di questo tipo. Però per tutto un periodo non hanno trovato accoglienza nelle istituzioni queste loro tensioni degli ex fascisti, finché nel 2004 arrivarono ad avere una copertura pressoché totale del quadro politico italiano, cioè anche la cosiddetta sinistra in qualche modo, come dire, sottoscrisse questo atto di profondo revisionismo. Ecco, una valutazione, come mai? Sì, è stata votata da tutti tranne da Rifondazione e Comunisti Italiani all'epoca. Sì. Come mai? Questo è, penso, a mio giudizio, è l'atto che assegna, e a giudizio anche dei protagonisti politici di questa cosa, dei rappresentanti delle varie formazioni politiche in Parlamento, questo è l'atto che in qualche maniera ha segnato quella che viene chiamata la pacificazione, una pacificazione raggiunta in nome di, diciamo, di superiori interessi nazionali, cioè della riscoperta di una comunità nazionale organica in cui al di là di classi e distinzioni di tipo sociale o di altro tipo, gli interessi sarebbero comuni, in pratica un nuovo, diciamo, nazionalismo italiano, nel nome del quale si è arrivati a questa pacificazione, sancita appunto con questa giornata del ricordo, che per adesso è ancora il punto, diciamo, più alto di questa campagna di revisione della storia, in cui i fascisti diventano i benemeriti e gli antifascisti diventano i criminali.